La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Un saluto da Franco D'Assisti e ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, il nostro settimanale di cinema, l'ora di cinema del weekend qui su Radio 24. Una settimana con sei nuovi film che arrivano in sala, noi riusciremo a occuparci di quattro di questi per ragioni di spazio, abbiamo cercato di scegliere quelli su cui c'era forse qualcosa in più da dire e cerchiamo come sempre di riepilogare i temi della nostra trasmissione nei nostri titoli di testa. Zelig sbarca al cinema. Checco Zalone, protagonista di Cado dalle nubi. Teresa Mannino, attrice in Meno male che ci sei. Dalle pagine di Oscar Wilde al grande schermo, Dorian Gray rivive in un film con Ben Barnes e Colin Firth. 500 giorni insieme a Tom e Sole, due ragazzi innamorati nella Los Angeles di oggi, una commedia romantica indipendente. Intervista esclusiva della Rosa Purpurea a Luc Dardenne, il 50% della ditta più premiata del cinema europeo. E cominciamo con il primo film della settimana, l'abbiamo nominato film del weekend della Rosa Purpurea. Abbiamo scelto 500 giorni insieme, 500 giorni nell'amore di Tom e Sole, giovani, carini e occupati in un'agenzia di copywriter di Los Angeles. Lui creativo sottoutilizzato, alle prese con i motti dei biglietti di auguri, lei segretaria bella, intelligente e tremendamente sexy. Vi presento Sole, la mia nuova assistente. Il mio staff, Sole. Questa è Sole, il mio staff. All'università mi chiamavano Adeguatezza, insomma. Il mio soprannome era Analità. Per via del fatto che ero meticolosa e ordinata. Tom e Sole, quindi, due ragazzi come tanti, pieni di ambizioni e forse anche di talenti, un po' tarpati da una società ingenerosa quanto a prospettive, ma all'amore non rinunciano, attratti e restii al tempo stesso. Mi mette a disagio l'idea di appartenere a un altro. E se per caso ti dovessi innamorare? L'amore non esiste, è pura invenzione. È bene che tu sappia che non sono in cerca di una relazione seria. Gli amici di Tom fungono da coro greco, fanno il tifo per lui, spingono con un carico di volgarità da caserma che è il motore comico del film. Mandrillone che non sei altro, l'hai trombata? No. Lavoretto di bocca? No. Di mano? Niente lavoretti, c'è disoccupazione. Ciao. Se dovesse saltare fuori un lavoretto... Addio. Viviamo così, saltando avanti e indietro sulla linea del tempo, i 500 giorni insieme di Tom e Sole, che si prendono, si lasciano, si riprendono, insomma, si amano. E su questa montagna russa sentimentale il regista Mark Webb, che ha alle spalle decine di video musicali e qui è il suo esordio alla regia di un lungometraggio, stanco delle solite commediole, ci guida con sguardo originale e mano sicura fra gli alti e i bassi di ogni vicenda amorosa, soprattutto giovanile. Decisivi a tal fine sono i due attori, nuove leve dondolanti sul trampolino che affaccia su Hollywood. Joseph Gordon-Levitt, che fra poco sentiremo, ha la faccia giusta, il disincanto ma anche l'entusiasmo per caratterizzare il circa trentenne di oggi. Ma la star è Zooey Deschanel, già vista al fianco di Jim Carrey in Yes Man. Incarna un tipo di attrice davvero fuori dalle righe. Bella e solare pur senza essere una maggiorata da concorso. Occhi di un azzurro tagliente, testa fra le nuvole e piedi ben saldi per terra. Sembrerebbe fatta per un film con Woody Allen, ma in fondo, in 500 giorni insieme, l'aria che tira è un po' quella. Ma ascoltiamo a questo punto il parere del regista Mark Webb. 500 giorni insieme parla di un ragazzo di nome Tom che analizza la sua relazione con questa ragazza di nome Sole e cerca di dargli un significato da un punto di vista diverso ma più genuino. Credo che tante commedie cosiddette romantiche si preoccupino di seguire il modello della commedia romantica più che preoccuparsi di ciò che il pubblico vuole davvero vedere. Questo film gioca un po' con questo modello. E 500 giorni insieme scardina anche un altro luogo comune, quello per cui sono le donne a cercare la relazione duratura e gli uomini a scansarla. Qui le cose funzionano al contrario. Anche per questo il protagonista Joseph Gordon-Levitt sottolinea l'universalità del film. È stato scritto da due ragazzi, diretto da un ragazzo e raccontato dal punto di vista di un ragazzo. Ma credo che le donne possano identificarsi nel personaggio di Tom allo stesso modo degli uomini. Lui ha una visione dell'amore di qualcuno probabilmente più giovane. Lo vive in modo idealizzato, che è comprensibile per qualcuno un po' immaturo, forse. Comunque, non è una questione di genere. Ed erano quindi Mark Webb e Joseph Gordon-Levitt, regista e protagonista di 500 giorni insieme, la nostra proposta del weekend qui alla Rosa Purpurea. Andiamo a vedere come sono andate le cose al botteghino 7 giorni fa per capire quale e quanti dei film che oggi vi raccontiamo potranno entrare nella top 5. Sarà difficile sicuramente andare al primo posto perché c'è Un treno di vampiri che spinge lì in vetta. New Moon, pensate, in 5 giorni ha incassato quasi 10 milioni di euro e ancora dobbiamo aggiungere tutto l'incasso di questa settimana. Difficile pensare, come dicevo, a ribaltoni in testa alla classifica. Al secondo posto c'è 2012, anche lui ha avviato oltre 10 milioni di euro di incasso globale, sebbene con una settimana di sfruttamento in sala in più. Terzo posto per Gli abbracci spezzati di Pedro Almodovar, è un ottimo risultato. Quarto per un'altra new entry, Planet 51. Quinto per Nemico pubblico di Michael Mann. Voglio sottolineare anche che uno dei film con la maggior media per sala è il documentario su Valentino Garavani, sul noto stilista, che con solo 7 copie ha portato a casa un incasso globale di circa 40.000 euro, che sarebbero, moltiplicati per molte sale in più, sicuramente un incasso importante. La Rosa Purpurea. Di nuovo insieme alla Rosa Purpurea andiamo ad affrontare la seconda nuova uscita di questo weekend nelle sale cinematografiche italiane, ed è un film molto atteso perché, anche se questa di solito è una pregiudiziale negativa, arriva dalla televisione, perché si tratta di un personaggio che conosciamo per i suoi passaggi molto molto divertenti, tra l'altro, a Zelig. Beh, questa volta sappiamo anche che si tratta di un personaggio quotato, è Checco Zalone, uno dei comici più in vista, appunto, della nota trasmissione di Cabaret, ma anche uno dei più surreali, di quelli dotati di una cifra più personale. Allora lo volevamo proprio tutti vedere un po' alle prese con il grande schermo. Cado dalle nubi è il titolo del suo film nei cinema italiani, in 400 cinema italiani da questo weekend. Lo ha visto per noi Barbara Righini. Tutti i veri cantanti all'inizio della carriera vivono proprio nella miseria. Cioè, tu sentiti le interviste dei cantanti di successo? Tutti hanno fatto la gavetta. Cioè, io che cosa devo raccontare? Che ero ricco. Ma tu lo sai che la signora della gelateria mi ha chiamato, mi voleva dare 100 euro. Ha fatto non più 80, ti do 100 da quest'anno. Beh, e tu che hai detto? Gula a te, signor. Ma per 20 euro mi devo rovinare il curriculum? Se mi chiedi chi è la ragazza per me, Angela. Il fenomeno TV Checco Zalone, partito nel 2006 con l'inno alternativo ai mondiali, approda al cinema. Il protagonista è proprio lui, Checco, aspirante cantante di successo, che ha vissuto la sua adolescenza attendendolo e che, ultra trentenne, decide di partire e di provare ad acchiapparlo veramente il successo. Dalla Puglia a Milano il salto è enorme, la sua ingenuità e purezza si scontra con una realtà diversa. Checco non vuole essere offensivo, ma spesso si trova a fare gaffe per la sua incapacità di applicare filtri prima di parlare. Allora, facciamo una cosa. I figli dei drogati li mettiamo a sinistra. I figli dei reati contro il patrimonio, le rapine, tutte le altre cose, a destra, veloce, dai. Che poi facciamo la partita di pallone. Drogati contro i ladri. Ragazzi, sta scherzando, è solo per conoscervi meglio. Allegri, allegri, dai. Checco è buono e con la sua bontà conquista tutti, la ragazza di cui è innamorato e che sembrava non volerne sapere, i ragazzi con cui lavora, il cugino omosessuale non dichiarato. Quanta cattiveria in questa società, nei confronti di chi tiene una un'altra sessuità. Onesto, non pretenzioso e divertente, Checco Zalone non deluderà il suo pubblico con questo suo esordio sul grande schermo. Le canzoni sono sempre azzeccate, dirette e imprevedibili. Certo, il plot ha uno sviluppo scontato e forse un po' buonista, ma chi sceglie Zalone probabilmente non entra in sala per cercare spunti di riflessione, vuole semplicemente ridere. E allora, se riderà lo spettatore, vuol dire che Zalone avrà ancora una volta azzeccato la sua carta, che è quella appunto di esordire al cinema. C'è stato poi un momento per poterlo incontrare, Checco Zalone, per poterci chiacchierare insieme, anche da questa breve intervista che stiamo per farvi ascoltare esce un po' quella che è la cifra di questo comico leggero ma molto strutturato. Sentiamolo, il microfono ancora di Barbara Righini. Semplicità e spontaneità nel tuo personaggio, dice sempre in faccia quello che pensa, senza essere offensivo ma facendo ridere, è questo il segreto? Sì, perché non ha filtri, spesso la cultura, la preparazione può essere un filtro, è ciò che può, che rischia di farti ergere a giudice, e quindi se tu vai da persona colta, capace di intendere e volere, a dire delle cose puoi urtare la sensibilità di quelli che prendi in giro. Invece nel film Checco è uno così ignorante, così candid, che può andare benissimo a un omosessuale e apostrofarlo con ricchione senza che ciò urti la sensibilità di nessuno. Ecco, a proposito di omosessuali, quest'estate c'è stata un'ondata di violenze contro gli omosessuali, episodi spiacevoli. Qui c'è una canzone molto forte che speriamo sia capita, che potrebbe diventare un nuovo tormentone, aiutare a capire. Ah sì, perché li prendo in giro, li prendo per culo quelli lì che la pensano così sugli omosessuali. Il segreto, te l'ho detto prima, è far ridere. Il segreto è far ridere. Se una cosa fa ridere, non urta la sensibilità di nessuno. Quanto c'è di autobiografico in questo film? C'è la musica, la passione per la musica. Quando ero piccolo volevo fare il cantante, il musicista serio, il pianista serio. Però poi il personaggio si sviluppa in maniera totalmente diversa da quella che è la mia vera, diciamo, vita, da quello che mi è accaduto. Ecco, quando sei arrivato a Milano non avevi questi occhi stupiti? No, è la miseria. Però ci sono andato dal mio amico Ettore a Milano. Ci sono andato anche peggio, anche con un treno molto più brutto di quello che si vede nel film, di notte, per fare il provino di Zelig. Un po' era uguale la situazione. Ho trovato uno uguale a Checco nel film, insieme a me, che mi ha regalato una delle battute più belle, secondo me, che ho sentito dire. Cioè, mi ha raccontato tutta la storia di suo figlio poverino, lui che è stato in carcere, che ha sbagliato nella vita, e alla fine voleva farmi la morale. Ha detto: mio figlio ieri mi ha detto papà voglio il motorino, sai che ho fatto? Ce l'ho rubato, così non lo ruba lui. Strepitoso Checco Zalone con la sua filosofia. Cado dalle nubi nei cinema italiani. Noi cominciamo a giocare col nostro pubblico, come facciamo tutte le settimane, mettendo in palio degli splendidi DVD. Anche questa settimana si tratta di un Blu-ray formato ad alta definizione. Ormai siamo quasi convertiti a questa nuova religione del Blu-ray, perché davvero è un salto in avanti per chi ama il cinema. Andiamo ad ascoltare la prima traccia. Vi dico subito che è un film meno difficile di quello che può sembrare all'inizio. Sentiamo. Conducila lontano, nel bosco. Trova un posto dove non passi nessuno, dove possa cogliere fiori selvatici. Sì, maestà. E là tu l'ucciderai. Se avete già indovinato, la rosa purpurea @radio24.it, diteci di che film si tratta e inserite anche, come sempre, il vostro indirizzo di posta privata, perché il più veloce e bravo fra quelli che avranno appunto individuato il film il sabato e la domenica nel nostro ascolto in replica, poi riceveranno a casa questo splendido Blu-ray. La musica vagamente inquietante ci porta al prossimo film. Lo abbiamo studiato sui banchi di scuola, fra la svogliatezza dell'adolescenza e l'attrazione per quel giovane bello e modì. La storia eterna del mito di Faust, vendere l'anima al diavolo per rimanere giovani e belli. Niente di più attuale a guardar bene, solo che oggi il chirurgo estetico ha sostituito il pittore Basil Hallward. L'avrete capito, stiamo parlando di Dorian Gray, il leggendario personaggio inventato alla fine dell'Ottocento dalla penna di Oscar Wilde e già oggetto sin dall'epoca del muto, pensate, delle attenzioni del cinema. Forse la più celebre delle trasposizioni è stata quella del 1945 con George Sanders nei panni di Dorian e la signora in giallo Angela Lansbury in quelli dell'amata Sybil Vane, l'attrice di cui Dorian si invaghisce appena arrivato a Londra. Oggi ci riprova Oliver Parker, forse il massimo cantore contemporaneo dell'arte di Oscar Wilde, visto che ha già portato sullo schermo L'importanza di chiamarsi Ernesto e Un marito ideale. Il volto di Dorian è quello dell'emergente Ben Barnes, il principe Caspian della saga di Narnia. Accanto a lui Colin Firth nei panni del mentore Lord Henry Wotton e Ben Chaplin in quelli dell'autore del ritratto, il pittore Basil Hallward. Non c'è infamia né piacere, caro Gray. L'uomo vuole essere felice, ma la società lo vuole buono. E quando è buono, l'uomo è raramente felice, mentre quando è felice è sempre buono. E tu vuoi essere buono, vero Gray? Ma anche felice. Non hanno un prezzo queste cose? No, la ragazza è a buon mercato. Quello che volevo dire è l'effetto che avrà su... Oh, bello. Sulla... Su cosa? Beh, sull'anima, direi. Sull'anima, dici? Questa è la mia chiesa. Con questo alcol io qui inchiodo la mia anima all'altare di Satana. Non troverai mai un più eloquente filosofo di pura follia. La storia è nota. Nella Londra di fine Ottocento il giovane Dorian Gray frequenta l'atelier del pittore omosessuale Basil Hallward, che prova una forte attrattiva per lui e sta dipingendo il suo ritratto. Dorian è bello, puro, ingenuo e tutti sembrano subire il suo fascino, ma il cinico e ricco Lord Wotton gli apre le porte su una vita diversa, fatta di eccessi, lussuria, vanità, tanto da cominciare a guardare con invidia al suo stesso superbo ritratto. Così Lord Wotton lo convince: se accetterà un patto con il diavolo sarà il suo ritratto a invecchiare, mentre lui rimarrà per sempre giovane e bello. Lui resterà così. Tu invece, Gray, cambierai aspetto. Alcune cose sono più preziose perché non durano. Sciocchezze. Diventiamo vecchi e avvizziti perché gli dei sono crudeli e odiosi. Allora forse dovrei inchiodare la mia anima all'altare di Satana. Per restare come sei? Ottimo scambio. Vero, Dorian? Lo faresti? Sì. Perfetto nella ricostruzione storica della Londra tardo e post-vittoriana, impeccabile nei costumi, ben recitato da un cast di livello, Dorian Gray non riesce però a convincere fino in fondo. Forse sarà che alla faccia imberbe di Ben Barnes manca una traccia di quel travaglio interiore che Dorian Gray si porta dietro, o forse sarà colpa di una sceneggiatura alla quale manca il coraggio del tradimento dell'originale letterario. Didascalico non direi, ma certo troppo fedele alle parole e al pensare dell'epoca di Wilde. Gli effetti speciali che animano l'orrendo ritratto sono da horror di serie B, insomma, da un film tanto atteso era lecito forse aspettarsi qualcosa di più. Ma sentiamo una breve dichiarazione del protagonista, Ben Barnes. Mi è piaciuto interpretare ogni Dorian, perché la storia in effetti si svolge su un arco di tempo di 25 anni. Ma è stato molto divertente interpretarlo a 46 anni, perché siccome ha lo stesso aspetto, è molto interessante trovare il modo di farlo sembrare più vecchio. Per esempio, non si sorprende più per quello che la gente dice o fa. È un bugiardo migliore. Mi è piaciuto cercare di rendere questo aspetto. Ed è stato interessante vedere come gli altri personaggi reagivano a me, perché loro sono stati invecchiati col trucco invece. E torniamo a questo punto al cinema italiano per parlare di un'altra proposta di questo weekend. Meno male che ci sei, il titolo già ci porta in zona moccia. In effetti in regia c'è lo spagnolo Luis Prieto, che aveva già firmato Ho voglia di te, che era il sequel di Tre metri sopra il cielo, e il cerchio si chiude. Siamo sempre lì, insomma, drammi esistenziali di un adolescente, alla quale ne capitano di tutti i colori, anche troppo sinceramente, e questo è il lato più debole, più déjà vu del film. Ma fortunatamente anche un versante di commedia che mette a confronto due generazioni al contrario, una Claudia Gerini Sereni, quarantenne dolce sconclusionata, e una diciassettenne, l'esordiente Chiara Martegiani, concreta e determinata. Guarda, le conquiste più difficili sono le migliori. Per conquistare mio marito, fino a Calcutta l'ho seguito. Però alla fine sono tornata con l'anello di fidanzamento. E con la gastroenterite? Lasciale sbattere, sono invidiosa perché sono l'unica sposata. Chi parla è Barbara, interpretata dalla conduttrice di Zelig, Teresa Mannino, l'amica che in ogni gruppo esiste e ha un compito preciso, tirar su il morale alla truppa. Con le tre donne mature a far jogging in un parco c'è Allegra, 17 anni, che un incidente aereo in Kenya ha reso orfana di entrambi i genitori. Allegra si trova così improvvisamente il mondo addosso quando scopre che suo padre aveva una relazione con tale Luisa, che è appunto Claudia Gerini, e si mette sulle tracce della donna, convinta che se papà l'amava tanto non doveva essere così male. Quando si incontrano, Luisa, rimasta ugualmente sconvolta dall'incidente, accetta di tenerla con sé e di farle un po' da madre in quel periodo della vita che porta alla grande scoperta del mondo e dell'amore. Mi ha detto ti amo. Davvero? Ma non te l'aveva mai detto? Non me l'aveva mai detto nessuno. No, che bello, che dolcezza. E quando te l'ha detta? Mentre facevamo l'amore. Ah, l'amore. Ah, di già. Comunque a me sembra un pochino troppo presto per fare l'amore, eh? Secondo me uno lo capisce quando è il momento giusto. Dici? Ad esempio, tu quando hai fatto l'amore per la prima volta, non hai pensato o adesso mai più? Certo che l'ho pensato, eh? Avevo 22 anni. Come dicevamo, il film si fa proprio più interessante quando in scena c'è Claudia Gerini, quando c'è quella storia, la storia del rapporto fra la giovane donna e appunto la quarantenne Luisa. Questo grazie anche alla vena comica, all'interpretazione di una Claudia Gerini che è sempre più nel bel mezzo della sua carriera, nella maturità, e questo traspare dal film. Allora sentiamola Claudia Gerini al microfono della Rosa Purpurea. Mi incuriosiva questo rendere, dare vita a questo personaggio molto romantico, con una sognatrice, una donna un po' illusa, no? E un po' senza spigoli, è una pura, e questo era una sfida per me perché abbiamo lavorato sul lato proprio dolce. Io sono una donna più risoluta, più determinata, spesso mi affidano ruoli di donne quasi aggressive, no? Finalmente una donna con da speranza, una donna così, perché ce n'è bisogno nel mondo. Meno male che c'è anche una donna come Luisa. La Rosa Purpurea. Insieme alla Rosa Purpura, con le note straordinarie della musica di Luca Flores, il grande pianista prematuramente scomparso e oggetto tra l'altro di un film che ricorderete di qualche anno fa con Kim Rossi Stewart, che si titolava Piano Solo. Abbiamo scelto queste atmosfere, chissà perché, ma mi piacevano, per parlare di Luc Dardenne, per parlare con Luc Dardenne, perché lo abbiamo incontrato a Milano, il 50%, come dicevamo, della premiata ditta dei fratelli Dardenne, vincitori di 2 Palme d'Oro al Festival di Cannes. Ogni film che arriva è per loro un grande successo internazionale, soprattutto un rapporto con i cinefili e con la critica straordinario. C'è chi li ha paragonati ai nuovi Rossellini per la loro capacità di stare addosso alla realtà. E adesso esce un libro che si intitola proprio Dietro i nostri occhi, che ci invita a guardare a quello che c'è dietro, appunto, lo sguardo cinematografico dei fratelli Dardenne. Lo firma Luc Dardenne, come dicevo, il più giovane dei due fratelli, e contiene anche 3 sceneggiature, quelle de Il figlio, L'enfant e Il matrimonio di Lorna. Il libro è edito da ISBN Edizioni. Voglio leggervi un paio di massime, le prime 2 massime, appunti quotidiani che popolano questo libro. 2 dicembre 91. Resistere fino allo stremo, al destino dell'opera d'arte, alla potenza sorda che irrigidisce, ostacola, mura, soffoca, imbalsama. La lotta contro questo destino firma la vera opera d'arte. C'è già molto dell'idea di cinema e appunto di opera d'arte dei fratelli Dardenne. E ancora il giorno dopo, il 3 dicembre, fare delle immagini con la pennellessa e non con il pennello. La cosa da mostrare è ispida, piena di asperità, la stessa indelicatezza con il suono. Ecco, questo è un appunto davvero straordinario che ci racconta il modo di intendere il cinema, un cinema duro, aspro, sempre addosso agli attori e alle situazioni, quello dei fratelli Dardenne. E a questo punto, proprio partendo dal senso di questo libro, una sorta di viaggio quotidiano fra vita e cinema che si fondono insieme, ascoltiamo alla Rosa Purpurea l'intervista di Luc Dardenne. Dans les notes de travail, j'essaie d'expliquer un peu. Negli appunti di lavoro tento di spiegare un po' il film, o meglio cerco di far comprendere come siamo arrivati a fare il film. Io non so in effetti dire come si fa un film. Questo probabilmente è impossibile da spiegare, ma do delle informazioni in modo che dopo averlo visto si possa capire perché si parla di certe cose. Gli appunti sono molto sinceri, anche se è difficile essere sinceri fino in fondo con se stessi. Alle volte ci sono cose che non ho scritto, che potevo scrivere, ma poi mi dicevo, ma fa niente, non ho voglia di rivelare certe cose della mia vita. Avrei potuto dirle, ma pazienza. È come se fosse una sceneggiatura quotidiana. Quanto queste note poi vanno a influenzare realmente la formazione delle idee che poi portano il film? Non tutti i giorni. Qualche volta c'è tanto da scrivere, ma altre volte nulla per un mese. Ma è vero che scrivo spesso. Leggo un libro o una cosa che mi colpisce, me la noto e dopo ci ritorno su. Ne parlo con mio fratello. E lui fa lo stesso, quindi anche uno scambio tra di noi. E penso che questo ci influenzi nel lavoro. Per esempio, prima di fare Il matrimonio di Lorna, c'è stato un momento in cui eravamo incerti tra due sceneggiature. Ed è stata una frase che ho letto che alla fine mi ha persuaso a fare questo film. Un piccolo testo che ho letto che mi ha veramente persuaso di fare questo film. Un'altra domanda è relativa a una delle tematiche forti del cinema dei Dardenne, ovvero quella del rapporto fra genitori e figli. Molto spesso, vedendo i vostri film, mi sono chiesto se c'è ancora qualcosa che davvero può passare fra una generazione e l'altra, fra questi genitori e questi figli, o se non c'è forse invece una comunicazione forse per sempre interrotta. No, je pense que la communication n'est pas interrompue. No, non credo che la comunicazione sia interrotta, ma è vero che mi domando spesso cosa può ancora passare da una generazione all'altra. Certamente alcune cose come il modo di mangiare, di parlare, ma a parte questo, a parte l'aspetto sociologico, come dire, non so se passi anche qualcos'altro. Io sono contento quando vedo che un ragazzo mette in discussione i suoi genitori non in modo astratto. In questo modo mi dico, si costruisce, si fa grande e diventa autonomo. In fondo è questa la speranza. Quando si hanno dei figli, che diventino individui autonomi, che trovino un lavoro, certo, ma voglio dire, un individuo è felice quando raggiunge la libertà di pensiero, ed è proprio questo che bisogna trasmettere ai figli. A proposito del terrorismo, io credo che ci sia stato qualcosa. Non ho mai studiato davvero come andarono le cose negli anni 70 e all'inizio degli anni 80 in Italia, ma credo comunque che abbia a che fare con la figura paterna. Il y a quelque chose avec le père, ça je crois. Un vero matrimonio? No, con uno straniero che paga per diventare belga. Premiato all'ultimo Festival di Cannes. Non avrai nient'altro da me. Il documento ufficiale che dice che è libera per il matrimonio. Un film di Jean-Pierre Luc Dardenne. Spero proprio che non mandi a puttane l'affare con i russi. Il matrimonio di Lorna. Dal 19 settembre al cinema. E queste erano appunto le parole, le suggestioni del trailer del Matrimonio di Lorna, l'ultimo film che hanno realizzato in ordine di tempo i fratelli Dardenne. È stato anche il momento per passare un po' alla loro cinema, un cinema che, come dicevo in apertura, è sempre addosso ai suoi attori, visti da molto vicino, li segue con camera a spalla, un cinema molto molto ruvido. Nel Matrimonio di Lorna si è un po' distaccato, abbiamo cominciato a vedere anche l'ambiente nel quale i personaggi dei Dardenne si muovono. È stato un caso o è anche l'indicazione di un trend, di una linea che i Dardenne potrebbero seguire? Sentiamo. Oui, on s'est un peu éloigné pour observer cette femme parce qu'on s'est dit. Sì, è vero. Ci siamo allontanati per osservare questa donna. Il fatto è che Lorna è strana, è calcolatrice, Pensa continuamente a quello che fa, a quello che dice, a chi lo dice. E noi ci siamo detti, dobbiamo osservarla per vedere come si districa in tutto questo. In Rosetta era diverso. Eravamo con lei, con la sua energia, la seguivamo al lavoro. Lei non aveva delle strategie complicate. Lorna invece è molto complessa ed è stato questo che inizialmente ci ha fatto allontanare dal suo personaggio scegliendo un'inquadratura più larga. La seconda ragione è che volevamo mostrarla di notte a Liegi, che non è Milano, ma comunque è una città importante e lei è là da immigrata, sola, un po' persa tra la gente che le passa accanto, con questo terribile segreto nella testa ed è così che volevamo mostrarla, dicendo... Questa donna sta preparando un omicidio ed è là tra la gente come una persona qualunque. Eppure ha questo in mente. Prepara, elle est là parmi les gens comme une autre e elle la sa dans la tête. Qual è l'esigenza che sentite in questo momento? Cioè voi raccontate appunto una realtà che è molto europea in realtà, non solo belga ovviamente, non solo di quel nord Europa. C'è oggi un'emergenza, un'esigenza sociale che sentite di voler raccontare in un prossimo film? Beh, c'est toujours dans nos films on s'intéresse aux exclus, aux gens comme Nei nostri film ci interessiamo sempre degli esclusi, della gente ai margini. Noi viviamo in una società, parlo dell'Europa perché non si potrebbe fare un paragone con il mondo intero, ma a livello europeo abbiamo costruito delle società che escludono il 15-20%, comunque molta gente, ed è questa quella che ci interessa. Facciamo dei film su di loro, lo dico senza demagogia, per mettere queste persone al centro dello schermo, per poterle finalmente vedere. Quando l'abbiamo portata a Cannes, Rosetta è stata vista e poiché la giuria ha premiato il film, si può dire che sia stata vista ancor meglio e spero che questo abbia un effetto sulla gente. Ma al di là di questo, ciò che mi interessa è mostrare queste persone con il proprio corpo, perché oggi mi sembra che in Europa una parte di persone viva il proprio corpo come un mezzo per dire esisto, non voglio morire, non voglio essere messo ai margini. Anch'io voglio essere dentro e mi resta il mio corpo per dirlo. Avete presente le persone che si drogano, che si tatuano, che si prostituiscono? Il corpo è forse l'unica cosa che hanno. Non hanno più il lavoro, la casa e gli resta solo il corpo. Ma non solo loro, c'è anche chi fa bodybuilding e tutto quell'esercizio fisico. Certo c'è del narcisismo, ma io credo che oggi ci sia una cultura del corpo che è davvero legata all'esclusione sociale. Je crois que il y a une culture du corps aujourd'hui qui est liée à l'exclusion sociale, vraiment. Luc Dardenne alla Rosa Purpurea, un grande regista, un grande ospite. Noi, prima di sentire come vanno le cose sulle strade, andiamo a farvi ascoltare la seconda traccia del DVD Game di questa settimana. Perbacco! Che cos'è? Ma è una fanciulla. Ed è proprio carina e bella, quasi come un angelo. Angelo, eh? È una femmina e tutte le femmine sono perfide, piene di arti subdole. La Rosa Purpurea. Di nuovo insieme alla Rosa Purpurea, siamo entrati nella zona dell'home video, del cinema da consumare in casa e lo facciamo come sempre partendo con i nostri minuti di recupero, quelli che ci vedono collegati con la redazione della settimanale Film TV per individuare un film da vedere, rivedere, recuperare, magari anche videoregistrando a tarda notte nella settimana che sta per cominciare in televisione e chiaramente in chiaro, perché nessuno deve spendere in questo senso per vedere cinema in TV. A Claudio Bartolini abbiamo chiesto qual è il consiglio ed è un consiglio davvero molto interessante. Claudio. Ciao Franco, oggi parleremo delle vite degli altri, il film di von Donnersmarck del 2006 che vede Ulrich Muhe come protagonista, l'attore defunto come tutti sappiamo, qui è in una delle sue ultime memorabili interpretazioni. Il film è importante perché a ridosso dell'anniversario sul crollo del muro di Berlino affronta il tema della separazione tra est e ovest in Germania e quindi mette in scena una storia di spionaggio e un dramma molto intimo, umano, analizzando proprio le due componenti est e ovest e in particolar modo il servizio di spionaggio che la Stasi operava in tutta la Germania. Ecco, il film andrà su Rai 1 in prima visione TV alle 21:10 lunedì 30 novembre. Grazie, alla prossima. Grazie a te Claudio, appuntamento alla prossima settimana con la redazione di Film TV e entriamo adesso invece nel mondo della DVD, ma prima andiamo ad ascoltare la terza e conclusiva traccia del DVD Game di oggi. Ecco, guarda, il suo cuore. È viva la tua bella rivale. Chiuso nel cofanetto c'è il cuore d'un cinghiale. Il cuore di un cinghiale? Il cacciatore mi ha tradito. E qui ormai dovrebbe essere tutto chiaro, i suoni del Blu-ray sono davvero straordinari, un grande capolavoro restaurato che torna allo splendore che ha avuto forse solo in quel lontano, beh non vi dico l'anno perché sennò è troppo facile, La Rosa Purpurea @ radio24.it se volete provare a giocare con noi con questo Blu-ray game di questa settimana. Un passo indietro, un salto indietro di 7 giorni e ascoltiamo una delle tracce seminate nella scorsa puntata. Andare a guardare Marla Singer che barcolla qua e là nella sua topaia. Ma questo non è un vero e proprio suicidio. Probabilmente è una cosa tipo un grido d'aiuto. Si poteva andare avanti per ore. Perciò resti a casa allora. Vuoi aspettare e sentirmi descrivere la morte? Era Fight Club, il DVD game della scorsa settimana, una grande partecipazione da parte vostra per questo Blu-ray che mettevamo in palio e due ascoltatori che hanno saputo più di prima degli altri indovinare di cosa si trattasse, di quale film stessimo parlando. Rossella Le Donne di Roma e Alessandro Benna di Genova sono i due vincitori del DVD game della scorsa settimana che riceveranno a casa il Blu-ray di Fight Club, per parlare del quale è già in collegamento con noi Claudio Pofi. Ciao Claudio, a te la linea. Ciao Franco, sì, un saluto agli amici che ci stanno ascoltando. Allora, questo Fight Club, questa provocatoria anticonformista opera sul rovesciamento dei valori nella moderna società consumistica attraverso i Blu-ray consente sicuramente di cogliere ogni particolare della ruvida e tetra fotografia concepita dal regista David Fincher e una visione sicuramente di gran lunga superiore al DVD. È presente una doppia traccia audio in DTS ad alta risoluzione in italiano e in inglese, sono numerosissimi gli extra, tra l'altro comunque già resi disponibili nella precedente edizione DVD, tra cui segnalo 5 sequenze del film analizzate accoppiando il momento della preparazione e quello del Chuck vero e proprio, oltre a un making of di 9 sequenze. E questo quindi è la valutazione sul film della scorsa settimana, appunto Fight Club. Cominciamo invece ad ascoltare le clip delle recensioni del nostro weekend, cominciando con un film che ha fatto davvero scalpore all'ultimo Festival di Cannes, se ne è parlato tantissimo, come sempre un regista, Lars von Trier, che divide. Stiamo parlando di Antichrist, ascoltiamo la clip. Qual è il posto peggiore? L'appartamento? La strada? Un negozio? Il parco? Andare a trovare qualcuno? Il bosco. Il bosco? Il bosco, sì. È strano perché tu eri quella che voleva sempre andare nel bosco. Cosa ti fa paura del bosco? Cosa ti spaventa? Tutto quanto. Presi da un amplesso, marito e moglie non si accorgono che il loro figlioletto prende a girovagare per casa, salterà dalla finestra morendo. Lei non riesce a elaborare il lutto nonostante l'aiuto del compagno che la invita a razionalizzare, affrontare le paure, tra le quali c'è appunto questo bosco dove hanno un piccolo isolato cottage raggiunto il quale i due scivoleranno verso un baratro di violenza fisica e psicologica. Von Trier concepisce Antichrist in un periodo di forte depressione, graficamente violenta, una disturbante messa in scena in cui la natura è maligna e la donna la sua naturale estensione. Da Lucky Red, l'edizione home video, sia DVD che Blu-ray, entrambe notevolissime, sia per quanto riguarda la parte video che audio, numerosi gli extra, tra cui il commento del regista, vari approfondimenti e sicuramente tutto da guardare, il reportage dal Festival di Cannes 2009 nel giorno in cui il film è stato presentato. È un film davvero che amplia ancora più la cinematografia di Lars von Trier, che non è mai stato uguale a se stesso, e con questo film aggiunge un altro tassello con questa venatura anche horror che sfiora le atmosfere appunto dell'orrore. Andiamo avanti con un film sicuramente molto più leggero anche come sensazioni di visione, un film che si unisce insomma un'azione straordinaria a effetti speciali di primissimo livello. È il sequel del Transformers che avevamo conosciuto un paio di stagioni fa, La Vendetta del Caduto, ascoltiamo la clip. Sappiamo che il leader nemico, classificato ENB1, alias Megatron, sta arrugginendo in pace sul fondo dell'abisso laurenziano, circondato da reti di rilevazione Sosus e una continua sorveglianza sottomarina. Sappiamo inoltre che il solo pezzo rimasto del vostro Allspark alieno è sotto chiave in un cavo elettromagnetico qui, in una delle più sicure basi navali del mondo. Decepticon, abbiamo localizzato la scheggia. Sono passati due anni dagli eventi del primo film, ora Autobot e umani collaborano insieme per sconfiggere gli ultimi Decepticon nascosti sulla Terra e in una battaglia nel bel mezzo di Shanghai un gigantesco Decepticon viene distrutto, ma prima di spegnersi riferisce che presto The Fallen risorgerà e tutto ruota attorno a uno degli ultimi frammenti dell'Allspark, questo cubo di energia andato distrutto. Il film è assolutamente un monumento senza precedenti alla tecnologia degli effetti speciali, ma sicuramente un film entusiasmante che supera artisticamente il suo predecessore. Arriva naturalmente in un video, sono copiose le edizioni DVD singolo, DVD doppio, con maggiori approfondimenti e ovviamente una grandissima edizione Blu-ray doppio disco, in questo caso che si rivela veramente l'unico mezzo per poter rivivere a pieno l'esperienza cinematografica. Segnalo per gli extra il commento del regista con gli sceneggiatori e sul secondo disco un bellissimo documentario di 134 minuti sulla lavorazione e la presentazione molto divertente del film a Tokyo poco prima che terminasse il montaggio. Ebbene, grazie allora Claudio Pofi, appuntamento fra 7 giorni per raccontarci tutte le novità in DVD. A presto, un saluto. Ecco Claudio Pofi, come da tradizione con i DVD, con le recensioni, noi chiudiamo la puntata della Rosa Purpurea. Buona settimana e buon cinema a tutti. L'appuntamento qui su Radio 24 è per sabato prossimo alle 18 e domenica mattina alle 9. Grazie, un saluto da Franco D'Assisi.